10:45, ritorniamo in diretta e siamo al telefono con Alberto Tetta dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Alberto, con te parliamo di Turchia, lo abbiamo già introdotto questo discorso, tu insomma ti trovi a Istanbul in questi giorni, quindi puoi raccontarci in prima persona, perché li stai vivendo questi momenti, cosa sta succedendo e soprattutto immaginiamo stai cercando di orientarti proprio per cercare di leggerla con un po' di lucidità anche questa situazione. Innanzitutto io vorrei chiederti la visione insomma che hanno i media nazionali nostri e devo dire anche internazionali in un certo senso, a livello mainstream quantomeno, è quella di un sommovimento di piazza che è frutto soprattutto di questa progressiva e tendenziale così attacco ai principi di laicità che certo storicamente rappresentano un po' i pilastri della Repubblica Turca, e che si sta traducendo questo rinvigorimento diciamo in una, come dire, restrizione operata proprio a livello di costumi, nella morale, ben esemplificata, no, dalla questione del divieto di vendita di alcolici, dal baciarsi in pubblico. C'è anche stato ultimamente un dibattito sulla questione dell'aborto, insomma. Sono soprattutto queste a quello che ti sta capitando di notare, di vedere, di capire, le prerogative, diciamo, e soprattutto la miccia che ha fatto esplodere questo movimento, o c'è dell'altro, una situazione magari che per capire la quale occorre risalire a qualche tempo addietro, il processo di formazione così proprio del governo di Erdogan e la messa in piedi di una politica che negli ultimi anni si è comunque caratterizzata in senso anche fortemente repressivo? Beh, allora, prima parto da una cronaca raccontandoti un po' che cosa succede qui. E anche ieri sono continuati scontri a Istanbul, nel quartiere di Beşiktaş, anche se che si trova sotto Taksim, dove si trova anche l'ufficio del primo ministro, e in molte altre città della Turchia, tra cui Antakya, che è al confine con la Siria, la provincia dove c'è stato quell'attentato, sono morte più di 50 persone, confine con la Siria appunto, di cui avevano parlato anche i media. Ci sono state, la polizia ha disperso i manifestanti anche ad Ankara, Izmir e in altre città del paese, ad Ersin, nel sud-est a maggioranza curda. Quindi diciamo che se la situazione a piazza Taksim, che rimane piena di manifestanti anche oggi e questa sera le manifestazioni continueranno, è rimasta abbastanza tranquilla, invece in altre zone della città e del paese gli scontri sono andati avanti, nonostante ieri il vice premier Erdoğan avesse cercato di abbassare i toni e diciamo cambiando un po', adottando un'altra retorica rispetto a quella che aveva invece adottato Erdoğan, che era andato invece allo scontro frontale. Per quanto riguarda le ragioni delle proteste, diciamo che sì, c'è il fattore di cui parlavi tu. Io non credo che il discorso sia laicismo, islamismo, ma di sicuro sono politiche conservatrici, una svolta conservatrice nell'azione del governo. Gli esempi chiari sono appunto le cose, i provvedimenti di cui parlavi tu, la campagna iniziata più di un anno fa e la dura presa di posizione di Erdoğan contro l'aborto, ma più recentemente la legge che limita la vendita di alcolici il divieto di vendita senza ricetta della pillola del giorno dopo. Bene, queste dal punto di vista della, quindi insomma il movimento, una parte del movimento che è molto eterogeneo, non vuole che il proprio stile di vita venga messo in discussione dal governo Erdogan. Poi c'è il discorso invece dell'autoritarismo. Certo, Erdogan innegabilmente è stato eletto con un consenso molto ampio e ha avuto il 50% dei voti. Il problema è che però il suo modo di governare nell'ultimo periodo ha espresso questo atteggiamento populista e personalista in maniera ancora più forte. Anche contro questa svolta autoritaria e questa sua maniera sprezzante di rivolgersi ai manifestanti, seguita all'inizio delle proteste, preoccupa una parte importante di chi manifesta. E poi ci sono anche problemi sociali, perché se l'economia turca cresce, però c'è anche chi è rimasto escluso da questa crisi, da questa crescita, scusa. E infatti oggi siamo al secondo giorno di sciopero generale che ha proclamato una delle più grosse confederazioni turche, che si chiama KESK, dei lavoratori pubblici, proprio in solidarietà con Kupay Gezi. Diciamo che quindi, al di là del discorso sulle libertà personali e sulla legge sull'alcol, tutti i gruppi politico-sociali di opposizione al governo Erdogan sono scesi in piazza dopo che, ricordiamolo, è stata repressa il presidio al Parco Gezi, che appunto degli attivisti che non volevano la demolizione di quel parco, che è stata diciamo la miccia che ha mostrato la forza repressiva del governo, un eccessivo uso della forza da parte della polizia, che diciamo ha spinto tutte queste persone, questo vasto movimento eterogeneo e di persone anche molto diverse a scendere in piazza. Senti, Alberto, senti, allora, volevo chiederti un paio di cose, vediamo se ce la facciamo a dirle tutte insieme. La prima è riferita proprio a quest'ultimo aspetto che mettevi in risalto, e cioè che io peraltro credo insomma vada tenuto in grossa considerazione, il fatto che proprio la lotta, la mobilitazione sia partita dalle proteste contro il rifacimento di Gezi Park, insomma. È un progetto quello di, diciamo, sottoporre a rifacimento grosse porzioni di tessuto edilizio, anche di zone in altro senso caratterizzate nel paese, insomma, ormai in via di sviluppo, e che si perpetua da tempo. È stata una vetta questa, cioè, o ci sono già stati altri momenti insomma che si sono caratterizzati per un forte senso di opposizione a questi progetti in altre parti della Turchia o della città di Istanbul stessa? E poi dai, il resto te lo chiedo dopo. No, allora, di sicuro sul discorso della speculazione edilizia, di questo grande progetto di trasformazione urbana, riqualificazione urbana, come la chiama il comune di Istanbul, ci sono stati altri momenti di mobilitazione. Ci sono appunto, per esempio, la piattaforma che ha organizzato il, il, no, la, la, la, il presidio al Parco Gezi già da tempo è mobilitata su questi temi, però mai il movimento ha raggiunto questa è stato di questa portata, nonostante in tutto il paese, e Istanbul ne è un esempio, appunto si è in corso la costruzione di maxi opere. Fai conto, per esempio, per parlare di Istanbul non c'è solamente il progetto su Taksim, sul Parco Gezi, c'è anche sono iniziati i lavori di costruzione di un terzo ponte sul Bosforo, che anche quella è molto discussa perché aumenterà, cioè, insomma, chi lo critica dice che aumenterà l'afflusso di macchine e che causerà la distruzione di molti alberi, inizierà la costruzione di un terzo aeroporto, molti quartieri della città come Tarlabash, come lo è stato Sulukule, sono stati abbattuti per essere ricostruiti, e molto spesso al posto delle case delle persone che ci abitavano sono stati costruiti uffici, centri commerciali, no? Quindi c'è un processo di gentrificazione importante, quindi questo è solo, diciamo, l'aspetto iniziale, il primo elemento che ha fatto esplodere una rivolta sociale, che invece ora va molto al di là di questa battaglia ecologista di Gezi Park o del discorso speculazione, tant'è che uno degli slogan che scritti sui muri di Piazza Taksim era abbattuto un albero e si è risvegliato un popolo, no? Quindi, insomma, il significato simbolico dell'inizio dei lavori lì e della lotta contro le demolizioni del Parco Gezi c'è, ma ora le rivendicazioni sono molto più ampie, molto eterogenee. Probabilmente ora il problema del movimento è costruire una piattaforma e darsi un programma chiaro. Senti, è anche vero però che quando si vanno a contendere, insomma, progetti di quel tipo, si discute il piano proprio della decisionalità, no? Quindi di chi decide su quali sono non solo i progetti, non solo il modo in cui la città prende forma e si sviluppa, ma anche le risorse da assegnare, le priorità, insomma, e tutto il resto. Quindi è quello, credo, che non è un processo da poco, insomma, opporsi con quella forza anche solo al progetto di ristrutturazione, di riqualificazione cosiddetta. Ma è ovvio che, come tu dicevi, insomma, qui la protesta si è allargata di molto. Oggi, tu lo ricordavi, c'era giornata di sciopero generale. E volevo chiederti proprio la composizione di questo movimento di protesta, perché si vede un po' di tutto, almeno le immagini che ci arrivano, insomma, raccontano di una società turca che per i suoi larghi settori, in maniera molto composita, sta scendendo in piazza, anche sfidando, insomma, il comportamento molto aggressivo delle forze di polizia. C'è un po' di tutto, nel senso che ci sono molti giovani, ma mi sembra, insomma, che anche per le fasce d'età siano molto molto variegate, oltre chiaramente a diciamo le spinte che vengono dal mondo degli stadi e via di seguito. In questa sorta di spontaneità, che comunque mi sembra un dato che stia accomunando questi giorni di proteste, si intravede, da quello che tu puoi intuire, insomma, un filo organizzativo? Beh, allora, prima di tutto, chi sta partecipando? Per la maggior parte sono ragazzi che prima non facevano politica, che invece in questi giorni sono hanno cominciato a scendere in piazza e dopo la repressione del parco e dopo questi giorni di scontri hanno cominciato invece a partecipare al presidio permanente che c'è nel parco Gezi in piazza Taksim. Quindi la stragrande maggioranza, almeno per quanto riguarda Istanbul, le persone che stanno manifestando sono ragazzi che prima non facevano politica. Poi ci sono i gruppi della sinistra turca, sono diversi partiti di ispirazione marxista, ma ci sono anche diciamo quella parte di società che viene chiamata qui la sinistra liberale, che per un periodo aveva anche appoggiato il governo Erdogan pensando che potesse essere potesse essere un elemento importante nel processo di democratizzazione, ma ci sono anche tantissimi militanti o persone vicine al Partito Repubblicano del Popolo, che è il principale movimento di opposizione, di ispirazione kemalista. Il kemalismo è l'ideologia fondata dal padre della patria Mustafa Kemal Atatürk negli anni 20, che tra nazionalismo e laicismo, laicismo autoritario, potremmo definire così. E poi ci sono anche persone che hanno votato Erdogan, che ora però sono preoccupate da queste politiche, da questa svolta conservatrice e autoritaria. Quindi il movimento è molto ampio, e proprio in questo senso è importante costruire un sistema decisionale anche a livello di piazza, per capire quali sono le rivendicazioni del movimento. Perché se sul discorso del parco oggi ci sarà un incontro tra la piattaforma Taksim, che è l'organizzazione ombrello mi pare che siano 22 associazioni a difesa del parco, si incontreranno con il vice premier, si stanno incontrando, è in corso ora questo incontro, e se lì probabilmente si potrà fare un passo avanti, vedremo che cosa succederà. Bisogna capire, al di là del parco, che cosa vuole questo movimento, che non è che appunto sta chiedendo le dimissioni di Erdogan, ma ci sono tutti gli aspetti di cui ti parlavo prima, sul discorso della rappresentanza, no? Cioè la piattaforma Taksim, che incontrerà oggi il vice premier, ha detto che loro non saranno, non si pongono come portavoce del movimento, e parleranno della questione parco e discuteranno e denunceranno con il vice premier il discorso repressione. Però in ogni caso il movimento è molto più ampio, penso che sia anche abbastanza normale, visto che nessuno si aspettava appena 8 giorni fa un'esplosione di rabbia sociale, una partecipazione di questo tipo. Anche le organizzazioni della sinistra, i sindacati, sono tutti stati colti alla sprovvista dalla grandissima partecipazione che questo movimento sta ottenendo. Secondo me però un elemento importante è che in piazza Taksim e nel parco Gezi gruppi che prima non si sarebbero mai parlati, su posizioni molto diverse, appunto ti dicevo, ci sono sia i curdi del partito della democrazia della pace che nazionalisti, ora per la prima volta sono in piazza assieme, stanno dialogando, e quindi questo è già un elemento importante. Vedremo, posto che è ormai chiaro che questo movimento è destinato a continuare per ancora molti giorni. Ora bisogna appunto capire se e come costruirà un sistema decisionale e quali saranno le medicazioni che porterà avanti. Assolutamente. Dicevi della componente curda, c'è anche, diciamo, una rottura della tregua che è stata ufficializzata intanto da un punto di vista pratico, perché c'è stato un attacco del PKK, insomma, proprio l'altro giorno, e non so se anche a livello di comunicazioni così formali, ufficiali, questo tipo di scelta sia stata appunto ufficializzata, ma è una componente comunque importante di questo movimento. E peraltro qualche tentativo magari che credo ci sia stato, insomma, da parte di frange estremiste di destra, insomma, che hanno tentato di intrufolarsi per attaccare, insomma, compagni curdi, e che sono stati, da quello che ho potuto capire, insomma, difesi, quindi segno anche di una certa discriminante pregiudiziale antifascista che in un modo o nell'altro è presente. Sì, allora, sul discorso sui curdi, appunto, insomma, il Partito Democrazia della Pace, che è, diciamo, vicino anche al PKK, in un primo momento c'era stata una certa diffidenza da parte della leadership curda, ma insomma dei militanti curdi, a partecipare alla manifestazione, appunto per la presenza anche di nazionalisti. Però con il proseguire della protesta, almeno a Istanbul, è cresciuta la partecipazione in piazza appunto degli attivisti, dei ragazzi del Partito della Democrazia della Pace, dei ragazzi curdi, e anche la retorica le dichiarazioni di Selahattin Demirtas, che è il leader del partito, sono ora di appoggio alla mobilitazione a Taksim. Sul discorso tregua, chiaramente anche la tregua intanto continua, e c'è stato un incidente, ma come c'era già stato in Nord Iraq, ma non implica la fine del processo di pace e il ritiro dei militanti del PKK iniziato l'8 maggio. Tuttavia chiaramente anche lì c'è un po' un punto interrogativo, perché se da una parte ora i curdi stanno trattando appunto con il governo Erdogan, e quindi diciamo sue eventuali dimissioni significherebbero comunque lo stand by di quel processo, dall'altra invece questo movimento sta chiedendo anche proprio passi avanti decisivi nel processo di democratizzazione, e penso che l'elemento curdo sia importante, e che se c'è un dialogo tra il Partito della Democrazia della Pace, Selahattin Demirtas, tra i militanti curdi e il movimento, e si trovano si prende anche la questione curda come elemento importante del processo di democratizzazione, allora di sicuro può essere un elemento positivo e utile anche alla soluzione di quel conflitto che appunto dal 1984 ha fatto più di 40.000 morti. Assolutamente, il tuo ragionamento, insomma, non fa una grinza. Effettivamente bisogna che anche la componente curda si regoli, a partire da quanto la questione curda assuma più o meno centralità per il complesso del movimento, visto che comunque, come abbiamo più volte ribadito, si tratta di un movimento comunque eterogeneo e attraversato da diverse componenti politico-sociali. Appunto, questo incontro di oggi, le associazioni che ci si stanno presentando hanno comunque specificato che non intendono proclamarsi, come dire, rappresentanti di quello che invece si muove, che è molto più largo. Quindi mi sembra comunque una presa di posizione, anticipandola, molto così onesta, no? Sì, io penso che loro loro hanno detto chiaramente che al di là delle problematiche relative al parco e della difesa del parco Ghesi, hanno una serie di rivendicazioni, che loro hanno chiamato rivendicazioni urgenti, che sono la possibilità di manifestare, di mettere a processo i poliziotti che sono stati responsabili di violenze, e hanno chiesto le dimissioni del prefetto di Istanbul e del prefetto di Ankara, e hanno chiesto che si possa manifestare liberamente, che la repressione termini in tutte le città del paese. Però appunto sì, hanno detto che porteranno queste no, rivendicazioni al vice premier Adams, ma sì, non si sono, a parte il discorso parco, non sono i portavoce, non decideranno, non hanno legittimità per decidere per tutto il movimento. Quindi diciamo che se prenderanno una posizione o decideranno qualcosa, sarà semplicemente relativa alla questione del parco. D'accordo, occorrerà poi anche ovviamente capire meglio le dinamiche più di carattere, diciamo, internazionale. Era questo un periodo in cui più o meno un tentativo di riavvicinamento di Erdogan nei confronti di Israele, ad esempio, c'era stato, e lo stesso Erdogan era stato invece messo un po' sotto accusa anche per le sue scelte in politica estera riguardo alla questione siriana. Bisogna capire anche quello che si muove in questo senso, insomma. Senti, va bene Alberto, io credo che per il momento possiamo salutarci qui, e ovviamente, insomma, se rimani lì ad Istanbul, ti terremo certamente in considerazione per risentirci nei prossimi giorni. Certamente. D'accordo, grazie. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Beep, beep, beep, beep.